dall'inizio degli anni 90 è attiva una rete europea che adesso ha collegamenti internazionali che si chiama Clean Clothes Campaign, campagna abiti puliti, presente attualmente in 9 paesi europei, che si batte proprio per restituire dignità al lavoro di milioni di persone che in altre parti del mondo, e in particolare nei paesi del sud del mondo, in Asia, in Centro America, nel bacino del Mediterraneo e negli ultimi anni anche nell'est europeo, producono gli abiti che ci mettiamo addosso, le scarpe che calziamo. Teniamo conto che più del 60% di tutti i capi che troviamo nei grandi magazzini, nei negozi, eccetera, provengono da altri paesi, sono fatti da altre persone, non sappiamo come consumatori in quali condizioni. La campagna ha per obiettivo, ha obiettivi molteplici. Il primo obiettivo è quello di rendere noti ai consumatori le condizioni di lavoro di chi appunto produce per noi. Fa questo svolgendo delle indagini sul posto, tenendo un contatto, un filo diretto con i lavoratori nelle fabbriche dei fornitori dei grandi marchi dell'abbigliamento e dell'abbigliamento sportivo, e poi fa pressione sulle grandi imprese, sulle grandi catene commerciali che hanno un grosso potere, sulle istituzioni, affinché cambino le condizioni di lavoro e siano rispettati i diritti dei lavoratori. Un'altra cosa di cui si occupa la campagna è quella di divulgare informazioni nelle scuole, ovunque, attraverso pubblicazioni, attraverso video, e curando anche un sito ben fatto che in inglese www.cleanclothes.org, dove è possibile anche interrogare un database sulle aziende. Poiché i grandi marchi dello sport sono molto collegati agli eventi sportivi, perché sono sponsor sia di grandi campioni oppure sono in rapporti commerciali con gli organismi promotori di manifestazioni sportive, da circa un 4-5 anni la rete internazionale della campagna Abiti Puliti punta l'attenzione con delle grosse iniziative internazionali in occasione degli eventi sportivi. Si è cominciato nel 2000 con i campionati europei di calcio, si è proseguito poi con i mondiali di calcio nel 2002, con le Olimpiadi di Sydney, e oggi è la volta delle Olimpiadi di Atene. Abbiamo organizzato una grossa campagna internazionale, attualmente sono 25 i paesi che in contemporanea stanno organizzando delle iniziative, attraverso una collaborazione, un'alleanza fra tre soggetti forti. Il primo è appunto la Clean Clothes Campaign, il secondo è Oxfam, che è una grande ONG inglese, il terzo è il sindacato internazionale. È la prima volta che una campagna promossa dalla società civile riesce ad allearsi in modo molto stretto con il sindacato per presentarsi in una forma forte, organizzata, potendo chiedere alla controparte, alle aziende, alle istituzioni alcune garanzie. Su cosa si basa la campagna? La prima cosa è stata fatta un'indagine nel corso di questi ultimi 2 anni, un'indagine in 6 paesi produttori di abbigliamento sportivo, soprattutto nella subfornitura di sia delle grandi marche come Nike, Adidas e Reebok, che ben conosciamo e hanno oltre il 50% del mercato, ma anche di quelle marche che sono un pochino meno conosciute, ma sono altrettanto importanti, altrettanto potenti, come per esempio ASICS, Puma, che forse sta togliendo nell'ultimo anno la posizione che finora ha occupato Reebok, o Mizuno. E per la prima volta 3 aziende italiane come Kappa, che è stato lo sponsor della nazionale di calcio nei mondiali del 2002, come Lotto e come Fila, una grande azienda del torinese, oggi da circa 2 anni di proprietà di un fondo e di un fondo di investimento americano. Ecco, questa indagine ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di vita e di lavoro di chi in queste fabbriche nel sud del mondo e nell'est europeo produce abbigliamento sportivo. E purtroppo il quadro che ne esce è ancora molto drammatico, nonostante tanti anni di battaglie e anche qualche buon risultato. Che cosa racconta questo, il rapporto frutto di quest'indagine che si intitola Playfair at the Olympics, e noi abbiamo tradotto in italiano, la campagna appunto italiana ha tradotto con il titolo Gioca pulito alle Olimpiadi. Il quadro che ne esce è questo: purtroppo si continua a lavorare un gran numero di ore, ci sono dei casi in cui, soprattutto nei periodi di punta, nei momenti di alta stagione, si può lavorare fino alle 12 alle 16 ore, cosa vietatissima dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ma questo avviene perché? Perché le grandi aziende stanno combattendo una battaglia sul mercato fatta di prezzi bassi, anche se forse non ce ne rendiamo veramente conto, e un grande assortimento, basterebbe guardare un qualsiasi negozio monomarca di Nike o di Adidas, e per questo motivo hanno bisogno di soddisfare degli ordini in periodi di tempo molto brevi. Si sta passando attualmente da ordini su base mensile a ordini su base settimanale. Questo fa sì che in alcuni momenti i fornitori di queste marche debbano produrre grandissimi quantitativi. In una parte dell'anno invece c'è un calo delle vendite, c'è un calo di produzione. Quando ci sono questi picchi, quindi è una produzione di alti e bassi, quando ci sono questi picchi il fornitore è obbligato, con lo stesso numero di persone, perché deve comunque mantenere dei costi di produzione bassi, perché questo gli viene chiesto dal committente, lo stesso numero di persone, magari il doppio della produzione. Ecco che il lavoratore, se non vuole perdere quel posto di lavoro, deve lavorare forse il doppio delle sue ore, ma per pagarlo meno, che cosa fa il fornitore, che a sua volta riceve pochi soldi dal committente? Lega il suo stipendio, il suo salario minimo legale, che normalmente è molto basso, non permette nemmeno a un singolo lavoratore di sopravvivere, lo lega al raggiungimento di una quota produttiva, ovvero io so che se voglio portare a casa il mio stipendio legale, oggi dovrò lavorare il doppio di ieri. Se non ce la faccio, dovrò fermarmi magari anche di notte per poter uscire dal mio posto di lavoro sapendo che ho messo in tasca quei pochi soldi che lo Stato decide sia il mio salario minimo. Questo naturalmente ha delle grosse ripercussioni. Perché? Perché noi in questa indagine abbiamo focalizzato l'attenzione non solo sulle condizioni di lavoro delle persone, degli operai, ma anche sulla situazione abbastanza drammatica che vivono i fornitori stessi, che sono un po' un cuscinetto fra il lavoratore e l'azienda. Il committente pretende che il fornitore produca in tempi sempre più rapidi, a costi sempre minori, il fornitore pretende che i lavoratori a loro volta rendano sempre di più per un salario identico o anche inferiore.